Arduino e sei il protagonista. I could guard in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. From the start, it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh, brave, let me go. After leaving your place, this road will lead me somewhere I don't really know. But it's somewhere someone always takes my name somehow. Let me go, let me go, let me go. Stop shouting, let me go. Let me go, let me go, let me go. Opencast Alpha! Ma dove hanno messo i tasti su Numa, ragazzi? Io un po' che non li trovo. Tutti da una parte. Tutti da una parte. Io trovo solo la X. Ma no, dall'altra. Ma ho capito. Ah, perché non puoi più ridurre giù, eh? No, se la prendi la trascini, sì, no. La trascini. E dove la metti? La metti giù. Perché tanto. Ma se la metti a destra? È tutto sovrapposto, capito? Oh, oh, scusa, ma stiamo registrando. Stiamo registrando. No, buonasera, buongiorno. Buonasera, scusa, a tutti. Buon anno, visto che, è la prima puntata 2013. Oh. Siamo un po' fuori allenamento. Sì, sì, sì. Diciamo com'è iniziato il 2013, peggio del 2012. Con dei botti è iniziato. Pum, pum, pum, pum. Esatto, noi, come tutti gli anni. E noi vogliamo continuare con questi botti e vi vogliamo dare un sacco di news nuove, fresche. Un sacco di botte. Fantastiche, tipo reparto ortofrutta. Se volete darci una mano, perché i botti sono finiti. I nostri bot non rendono come i bot di Stato, ma... Abbiamo investito tutto in banche. Va bene lo stesso, perché noi davvero abbiamo da darvi delle news eccezionali alle volte e altre volte meno eccezionali. E questa volta? Ma altrettanto interessanti. Questa volta vi do una news freschissima, per esempio. Così secchi, senza neanche voglio dire... partire secco, senza dire nulla. Mindbox. Chi? Mindbox è in saldo, praticamente un mini PC basato su AMD, APU e Linux Mind. APU. AMD, APU. È indiano? Insomma, probabile. Si passa dal prezzo lancio, che era di $479. Say what? $479 a $379. Ma non è male, non è male, dai, non è male. Come non è male? È un truffa. Boxettino veramente un sacco, ma è un sacco piccolo, è veramente un sacco piccolo. Ma costa un casino. E vabbè, però tu c'hai una tua scatoletta con dentro già tutto, E ho capito, si chiama computer. Computer. Computer. Ma è che i computer una volta erano dei cassoni enormi, adesso fanno le scatolette, no? Tipo ci sono anche quelle con l'apertura tipo tonno, le accendi, cioè tiri fuori la clippettina, tiri su e ti si riaccende il computer. Un odore di tonno. Non è tonno, credo che sia Clara. Ah, è Clara. E va bene per voi che dal microfono non si sente non è tonno, l'odore. Non è tonno, era tonno. Esatto. Era tonno, sì. Però non si sente il... l'odore, ma si sente della roba diversa, tipo così. È forte. Senti che roba. È la nostra mascotte. E pensare che non sta russando, è dietro questo. Tu pensa. Ah, bene. un inizio spumeggiante per questa 36esima puntata di Opencast. Quanto? 36, signori. No, no. La 36, quella che viene dopo, la 30. Scusa. 30, 39. 39. La 34, quella che viene dopo la 33. siamo messi male. La 35, quella che viene dopo la 34. Vabbè. Questa nuova puntata di Opencast, signore e signori. Diciamo che potrebbe essere la prima anche puntata la prima dell'anno del 2013. Fino a qui ci siamo. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Abbiamo già cominciato spumeggiantemente a darvi delle notizie. Davvero? Il nostro buon Loris. Sì, ve l'ho voluta proprio buttare lì perché ce l'avevo sotto mano. Ma a proposito, diciamo di dispositivi con su al Linux. E questa nuova console di gioco? La UIA. Uia? No. Ah no? Uia. No. Uia. Come, c'è una console di gioco di una ditta che fa quella, solo videogiochi. Uia. Quella dell'Nvidia? No, ha tanto Nvidia però per questa cosa no, qui. No, dai, la Uia. La Uia si chiama quella console che è stata sviluppata. Uia. Il cui c'era su Kickstarter il progetto, sì, che è stato veramente un sacco di soldi hanno raccolto per questa console. Sì, ma partirà mai? E stiamo, ma noi, siano, noi ce l'auguriamo. Siamo in giro i prototipi. I prototipi. È stata ormai presentata a luglio 2012. Ci sono dei prototipi, ci sono dei titoli interessanti. La Square Enix ha annunciato che avrebbe fatto un porting addirittura di Final Fantasy 3, se non erro. Non uno, no, non due. Noi ci auguriamo che questa console possa avere un suo spazientino. Ah, non stavi parlando di quella? Stai parlando di quella roba dell'Nvidia invece. Ma cacchio, ma quella dell'Nvidia che è interessante perché ha una forma particolare che ricorda, un ricorda controller qualcosa con dell'Xbox, uno schermino di qualcuno. Sì, così. Ma l'altro ce l'hanno fatta veramente facile. Hanno detto: oh, prendiamo un controller di successo fatto, e ci attacchiamo uno schermo. Ti piace vincere facile? Esatto. E comunque non era quella. Sai dove gli piace vincere facile particolarmente? Ci piace. Appoggi Bonzi. Appoggi Bonzi. Appoggi Bonzi. Ci piace vincere. Ci piace facile, vincere facile. Appoggi Bonzi. Comunque non era neanche quella. È di una certa casa di videogiochi. Ci vorrebbe quel quadribo di Gigi col su booster. Chissà dove è andato. Oramai basta. Ma se non passa il filo bus, c'è sciopero del filo bus. Puppami la. Beh, comunque. Lo stavamo aspettando. È arrivato. Come era? Ah, ma forse stai parlando di quella di Valve. La valvola. Ah, la valvola. La valvola. La scatola della valvola. La scatola della valvola. Beh, e l'unica cosa che si sa è che ci sarà su Linux probabilmente. Forse. Stanno giocando con Ubuntu. Cosa vuol dire? Perché probabilmente. Scusa. Allora. Notizie. Mm-hmm. Certe vaghe di eventuali. Diciamo che c'erano delle persone in bagno che fra altri rumori tipo ma non è preciso, sì. Non c'è bisogno di fare la simulazione. No, hanno detto Linux ed erano dentro in uno stabile della Valve. Ma è dentro in un box in uno stabile della Valve. Cioè per forza, anche perché dalle ultime notizie che cioè dagli ultimi commenti di Valve su Windows 8 l'alternativa era usare macOS. Cioè, ultimo magari no commenti perché no, dico, è già da un po' che gli stanno dicendo, da quando hanno cominciato a far girare Steam. Questa per è una gatta, hanno detto principalmente. Comunque sembrano molto interessanti le caratteristiche hardware di questa potenziale console. Sì, che sono esattamente... Non si sa ancora nulla. No, in realtà ci sono notizie di, sì, ho capito, di una decina di giorni fa. Questo famoso Piston, che è una ditta che produce Sex Pistons. Questa Piston, che è una ditta che produce, cioè già produce piccoli computer, dei box computer, che potrebbe essere una potenziale Valve Box, qualcosa del genere. E addirittura ci sarebbe in questa specie di cubetto che sta in una mano un processore i7 e 8 giga di RAM. Quindi sta in una mano. Tanta roba. L'unico problema è che costicchia. Costicchia a quanto pare $999. Quindi questo ci fa pensare che non sia questo il progetto di Valve. Ma soprattutto essendo piccolo, con un i7 e 8 giga di RAM, no, Lo devi tenere nella vasca da bagno. Lo devi tenere assolutamente con un nella vasca dei c'è pesci. Il raffreddamento liquido che te lo c'è il 2 per 1, se compri la console ti regalano il raffreddamento liquido che lo attacchi al radiatore della comunque macchina. Io penso che non sarà una roba del genere, perché davvero costa troppo. Le analisi di mercato, infatti, parliamo magari già che ci siamo delle nuove console di cui ci girano voci online, che saranno entrambe probabilmente basate su piattaforma AMD 8 core, girano voci che saranno delle console con un... continuano a girare queste voci, ragazzi, perché l'ho detto 4 volte. Come girano le voci? Per vomitare. Torniamo a noi, prezzo di mercato dovrebbe assestarsi intorno ai $399 o euro, perché c'è crisi, perché a questo giro probabilmente non avranno il tempo di inserirsi nel mercato e di vendere sotto costo come hanno fatto fino adesso. Allora, alla fine ve la siete cercata, eh? Ecco. Ma chi se l'è cercata? Se la sono proprio cercata, davvero. Ma comunque ho notato che ultimamente sta uscendo sempre meno roba, perché la crisi. La gente si tiene le sue cose. Può essere anche il freddo, per quello che esce meno roba. Guarda, capito? Esce coperta. Io per non saperne leggere né scrivere, non solo mi tengo le mie robe, ho anche riesumato vecchie console. Per esempio, vi segnalo che esiste una console che si chiama Xbox, che era prima dell'Xbox 360. Mai avuta. Nera e verde, che veramente non si trova più da nessuna parte e ci fai girare di tutto. Ho giocato col MAME l'altra sera, ho finito Metal Slug, continuiamo a inserire gettoni con il tasto Select. È stato veramente inebriante. Ma lo sai che credo che ci sia anche il porting per Android o robe del genere? Sì, ho capito, ma vuoi mettere a giocare sulla TV col cavo SCART Advanced? Cioè, è l'effetto proprio video che hai che è diverso. Cioè, proprio quell'effetto... La sgranatura. La sgranatura. Esatto. Vabbè, non avrà 8 GB di RAM e 8 processori come le nuove console, però devo dire che quel vecchio Pentium 3, a metà tra Pentium 3 e Celeron, da 700 MHz fa il suo porco lavoro. Spacca. E detto mi questo, ricordo ancora quando si giocava con Linux con quelle cose lì. Vero? Niente, allora io intanto che tu rimani nel tuo Marcord, ricordatevi quando eri giovane ti compilavi i driver della scheda video da solo per poter giocare a Linux col MAME. Io passerei il pezzo dopo, anche questo trovato a caso su Jamendo, come quello di apertura che era degli Steep, un gruppo che ci ha sorpreso. Steep che trova Steep che sono meglio degli Stipsi, che hanno avuto ultimamente sì, un blocco. Si sono un po' ristretti come gruppo, erano in 5 e sono rimasti in 2. Esatto. Comunque dice, ammettile le tue colpe. La musica di stasera l'hai scelta. L'ho tirata a il caso. Tastino bastardo era il tuo, l'ho tirata giù a caso da Jamendo. La prima ci è andata bene, adesso sentiamo come ci viene con questa Watching You Smile. Ten Gods, un brano che a te piace già solo da questo sax in apertura che è molto tranquillo. Ah, è sax? Sì, perché questo sei basso gods. Che entra. Pensavo fosse sopra. Motosega. Queste cose così, di questi brani che a te piacciono tanto. Mi piace sentire questa musica. I know you like it. È una canzone dedicata a te. I know you like it, baby. Piace yes. Guardarti yes. Ridere. Sono tutto lui. Yes. Another place, another time. Now I've forgotten all my cares, and I'm thinking thoughts sublime, just like a sensitory. There came a flash to me, you're not only my present, but my future and my history. I know it might sound funny, but no matter where you down a lonely road for what seemed like a million miles, but that life is all over now, and I sit and watch you smile. I know it might sound funny, but no matter where you flee, there's no way that you can run away from destiny. Just like a sense territory. There came a flash to me. You're not only my present, but my future and my history. Opencast Alpha, siamo tornati dopo questa musica. Sembra che siamo un po' al bar così. Che questa te lo dico un po'. Ma no, io lo so che gente stava limonando mentre andava questo pezzo. Eravamo noi. Per quello che lo so, scusa. Ma io so anche che c'era gente che ci stava ascoltando, non so, sul pullman la mattina. E si è messo a limonare con la vecchietta che gli si è seduto a fianco. Questo va bene perché c'era. All'autista si è salvato perché c'aveva il cartellino. Il conducente, davvero. Allora, stavamo pensando durante questo bellissimo brano, che veramente se lo rimetti ti taglio le mani. Smettila. Io lo so che ti piace il sax. Il sax. Come sei il sax. So che ti piace. Sentilo. Ti piace, eh? Tutta un'altra cosa. Ma adesso lo tolgo perché sennò meno poi dopo male. Dopo rimane tutto. Lascia perdere. Mi viene un fremito. Sì. Comunque stavamo parlando della difficoltà. Un fremito nella forza. Difficoltà dell'Oris. Perché Loris ultimamente non riesce. No, ragazzi, io non riesco a trovare un arcade stick per giocare i miei vecchi retro gaming sulla prima Xbox. Sono problemi esistenziali. Ho questo problema esistenziale. Perché, ragazzi, quelli della nostra generazione, fondamentalmente, ci piace il gioco 2D, ci piace il gioco arcade, quello che prendi, spari, distruggi tutto. E allora, vogliamo segnalare qualche buon emulatore per Linux per giocare a qualche vecchio gioco delle vostre console? Io non gioco. Non vuoi segnalarlo? Anzi, facciamo così, ve lo segnalo nella prossima puntata. Sono fisicamente anzi, handicappato. Segnalateci di voi. Anzi, lasciateci dei commenti su www. Anzi, scrivete solo glcom.it, che poi il www si aggiunge. Perché se scrivete www.glcom.it si aggiunge un altro www. Ma questo è un discorso che poi metteremo a posto, forse. Say what? Giuro. A me non funziona. Per cui andate su gl-com.it, il nostro fantastico sito, troverete un interessantissimo post riguardante questa puntata di Opencast, con tutti i link alle varie notizie che vi abbiamo dato e anche alla musica fantastica che vi abbiamo passato. Se state ascoltando questa puntata, ci siete già finiti. Non è detto, magari ci scaricano attraverso l'RSS del podcast. Ma funziona adesso? Sempre funzionato, c'è. E tra l'altro segnalateci magari anche i vostri videogame preferiti. Lasciateci commenti, diteci, fateci sapere. A quanti di voi non piace R-Type? Ho imparato adesso a dirlo R-Type, perché io dicevo sempre R-Type oppure R-Type, R-Type, poi ho cominciato a uscire con R-Type vere e basta, mi sono perso. Wow, guarda veramente i tempi, cioè a posto di schiacciare il bottone e sparare, cioè, era molto simile al R-Type, perché schiacciavi il bottone, caricavi e sparava tutta una botta, e con R-Type vere simile. Anche simile, molto simile la situazione, davvero. Però non riuscivi più a ricaricare, no, cioè erano dei tempi diversi dal videogame, ecco, diciamo che Parliamo di distribuzioni. No, parliamo di una cosa interessante. Dopo. Parlando di distribuzioni. Interessantissimo. Il giovane Loris qui, che era rimasto un po' indietro con la tecnologia. Il giovane Loris. Giovine. Il giovane Loris. Il giovine Loris. Davvero, ora non, Loris, non vorrei sembrare quello retro, uno che fa un programma sull'open source. No, no, non mi bruciate così, ragazzi. No, però voglio dobbiamo dire. Dobbiamo dirlo. No, diciamo le cose come stanno. Diciamo. Lui aveva trovato la sua bella distribuzione stabile, con cui si trovava bene, esatto, che sì, non gli dava troppi problemi. La mia dimensione avevo esatto trovato. FreeDOS. Esatto. Si è comprato il portatile nuovo. E FreeDOS faceva fatica. Esatto, per cui ha installato Ubuntu. Per cui, come novello utilizzatore dell'ultima versione di Ubuntu, sì, facci sapere un po' cosa ne pensi di questa interfaccia Unity che ti è cascata così un po' tra capo e collo. Diccimelo. Mi sta intervistando? Più o meno sì. Ma guardi, io le dirò la verità. Questa Unity è veramente strana, cioè un particolare. Perché mi sembra che da una parte abbiano semplificato un po', dall'altra abbiano semplificato troppo. Cioè davvero passare da una GNOME classica a questa roba qua, cioè uno si trova un po' in difficoltà. Dice, dove sono le mie cose? Dove bisogna entrare veramente in un'altra ottica. Cioè in 3 anni hanno fatto dei, non dico dei salti in avanti, però è veramente cambiato tutto. Ma stiamo parlando di Unity o di GNOME 3? Io sto parlando per adesso di Unity. Invece GNOME 3 okay, lo sto utilizzando anche quello, e devo dire che è abbastanza interessante. Anche quello è veramente tanto tanto diverso, perché bisogna entrare in un'ottica. Mi dicevo all'inizio puntata, dicevo, dove sono finiti i tasti sulle finestre? Cioè c'è solo la X. Diciamo le cose come stanno. Perché tu non trovi più i tuoi file? Perché non riduci più icona le cose? Ma non c'è una barra in cui ridurre icona. Diciamo le cose come stanno. Sotto download. Comunque, in questa cosa io mi sento di consigliarti di installare GNOME Tweak Tool. Tweak Tool che ti permette di cambiare un po' di impostazioni senza andare a ravanare nel coso di configurazione. Che ti permette di anche aggiungere i tasti. Riduce icona. Che voglio dici di installare un'app? Addirittura. Sì, come hai sempre fatto su Linux. Ma scusate, c'è ancora Compiz? Perché vedo che ci sono degli effetti. Ma ci sono Compiz viene usato su Unity. Su Unity è Compiz. Mentre invece su GNOME no. Su GNOME no, è usa un suo. È suo. Però è sempre si chiamerà Gnomi. È Gnome Shell che fa tutti quegli effetti in 3D. Gnome, e non posso avere le finestre tutte gommose come c'era una volta? No, non ci sono più. No, hanno torto. No. Sì, brutti. No. Ma invece KDE? Ma KDE invece è rimasto un po' quello che era. Hanno cambiato un po' quella barretta lì. E KDE è un grande classico. Cioè, ma c'è chi non la pensa come te. Non lo so. Adesso cos'è? 4.9. Versione 4.9.4. Una cosa così. Bisogna però effettivamente notare che il fork di KDE 3 è stato un po', diciamo, dimenticato. Per cui possiamo dire che gli utenti di KDE hanno ritrovato probabilmente casa in KDE 4. Hanno casa con la K. Mentre invece i fork e di GNOME 2 aumentano sempre di più. Ce n'è sempre uno nuovo, notizie di poco, un nuovo fork di GNOME 2. E si chiama il vero GNOME. E non solo, anche desktop alternativi basati su GNOME Shell o quello che è GNOME Shell o quello che è, però con uno stile più classico, diciamo. GNOME 2. Però potete dire quello che volete, ma il tasto Windows legato all'exposé in GNOME è da eiaculazione precoce. Ti conosciamo, quindi lo sappiamo. Legato, a me è sempre piaciuto. È sempre stato legato al tasto del menu delle applicazioni. E in GNOME Shell quello è il menu delle applicazioni. Esatto. Questo è il menu. Esatto. E ti fa vedere il menu sulla sinistra più le... Oh, oddio, aspetta che ho trovato una cosa nuova. Oddio, aspetta, se vado a destra che succede? Ha scoperto i desktop virtuali sulla destra dello schermo. Questo è scoperta di GNOME Shell in diretta, ragazzi. Mi vergogno tantissimo, ma io ero rimasto davvero a una distro del 2009 con cui ero tranquillo, stabile. Mi navigavo, mi facevo le mie cose. Ma la domanda è, perché hai installato Ubuntu e non Debian a sto punto? Perché volevo, sai com'è, invecchiando con gli impegni della vita, vuoi delle cose un po' più semplici, pacchettizzate e meno sbatti. Mentre a 18 anni mi scialavo con Slack e diciamo, dovevo installare... Appunto, la domanda resta, se volevi qualcosa di più semplice, perché non sei andato su Debian? Perché Debian, Debian è rimasto Debian. Debian, sì. Sì. Presumo che devono essere. Sì. Scusate, devo andare. Per gli amanti del classico, secondo Debian desktop virtuale. Debian. Ma non posso averne un quarto? No, no, si creano automaticamente ogni quando volta che tu... ne occupi uno. Ah. Capito? Cioè, se tu metti una finestra sul secondo, metto una finestra ti crea sul secondo. E la magicamente... puoi trascinare anche da lì. Pensa, dai, esposé. La posso mettere sul terzo. Cioè, si è creato un quarto. Oh mio Dio. Ma quando facevamo le puntate con la presentazione di Gnome 3? Non c'era. Ecco. Oddio, si è chiusa. Ragazzi, Dio Gnome, quanto è figo. Fidati. Oh, grazie. No, no, no, no, no. Dici così solo perché non ci lavori. No, no, no. È vero. Dico così. No, no, allora, secondo me. No. No, è come è Compix, dai. Devo no, essere bello, bello, 10 secondi, poi rompe il cazzo. Non secondo me, per navigare quella roba lì, non è niente male. È vero, cioè, l'interfaccia è un po' più da tablet che da computer, se vai a vedere sotto certi aspetti. Ma guarda che però... io l'ho usato, adesso ultimamente non posso più tanto, ma l'ho usato in ufficio. Non posso più tanto perché sto diventando cieco, diciamo le cose come stanno. Ma se c'è icone grosse 255. È vero, proprio, cioè, non è quello il motivo. C'è queste icone che sono fantastiche. No, non posso più tanto perché non ho più tempo di reinstallarmi Linux sul computer nuovo in ufficio. Per cui tocca usare Windows 7. Sembri una pepe. Esatto. Che schifo. Però ho trovato per Windows 7 un'interessante applicazione per fare i desktop virtuali. Ah, vedi? Comunque, si chiama Linux. Questo, sì. Linux desktop. A parte questo, ho usato Gnome Shell su Linux in ufficio per diverso tempo. Mi sono sempre trovato molto comodo. Molto infatti, comodo. Tutte le volte che poi tornavo su Windows era da sparsi. Io vi dico solo che da quando è uscito Gnome 3 sono passato a Fluxbox. Sì, ma tu, ecco, cioè... ma tu sei troppo retro. Devi un po', devi un po' adattarti. Te, perché non sei passato a parte che tu sei uno che usa Gentoo, per cui già sei un caso a parte. Yeah. Non musica. Sei musica, no, musica, ragazzi. Musica. Così. E a questo punto. Ma questa è meglio di quella di prima. Io direi che visto che ormai siamo arrivati in zona chiusura. A una certa. A una certa. Diciamo le ultime notizie oppure le diciamo dopo? Musica, ultime notizie. Musica e ultime notizie. Dai. Propongo allora così. Vi lasciamo con questo pezzo intanto che dall'ultimo disco di Brett Sachs. Belli. Grande. Che un artista che su Opencast passiamo spesso e volentieri. Spacca di brutto. Trovate anche questo disco lo trovate su Jamendo. Il brano si intitola In Your Face. Brett Sachs. I was barely legal, looking for something evil to say and people to be antagonized. And you said to me it's not a good strategy, you should grow up, try to act like you're civilized. I explained that I just valued sincerity, you should go fuck yourself and then try to die. You were sick of it and called me an idiot and left town and said, are you satisfied? If I had what you had, I could get you to pray. No, I'm not in your face, I'm just getting by. If I had what you had, I could get you to pray. No, I'm not in your face, I'm just getting by. Oh, caught a beating, but would not be defeated by any man who couldn't see I was always right. All I said was I don't mean to offend, but you're the dumbest motherfucker I've seen all night. Though you know you wanna know everything I know, it's the way. I'm just pipu. Bello, veramente bello. Ti è piaciuto? Ma strambo. Non hai neanche ascoltato, è che ti lamentavi. È diverso. Di come una volta tutto era più bello. Cioè io c'ho non problemi. Una volta sembri, tutto gnom. Sembri mio nonno. Io continuo ad andare in giù, non trovo una barra, però mi devo abituare, ragazzi, perché non è male davvero qua la situation. Stavo guardando le specifiche di PlayStation 4 potenziali, davvero interessanti. Jaguar Corse 1.6 GHz, 4 core, 2 MB. Megabyte di cache dei vendetti, poi c'è l'SSL, l'SS4, la GPU anche interessante, poi c'è questa memoria di sistema unificata GDDR5 al 4 giga, è molto simile a Xbox 720, come la chiameranno, insomma, che cioè la prossima generazione avrà veramente dell'hardware molto simile. Questo sicuramente porterà a abbassare i costi di produzione per le case, per le software house, e forse riusciremo a trovare anche dei porting un po' più decenti su computer, perché l'architettura sarà simile, insomma, sarà comunque sotto sé questa architettura qua. E ergo ci potremmo giocare, e chi vivrà vedrà. Pensiamo un prezzo lancio, perché c'è crisi, 3,99, non di più. Secondo me sto giro fanno le console un po' modulari, come ha fatto la Wii U. Partono con la versione base, se la vuoi 3,49, e poi se vuoi le cose più pompate te le compri dopo, piuttosto che. Comunque, vuoi la RAM? Alle news, volevamo anche segnalarvi, tra le altre cose, aspettate che lo apro, sto aprendo. Cosa stai aprendo? Di cosa vuoi parlare? No, ma vai in bagno, scusa. Ah, ma il DistroWatch come siamo messi? Ma benissimo. Il DistroWatch sta bene. Stiamo pompando di brutto, Sì. Per esempio, Gentoo è 27esima. Vedo che quelle, diciamo, le cose importanti ci sono. Vuoi farci sapere come la no, volevo la cosa di parlarvi dello sgomento invece su WhatsApp. Mamma sgomento mia, della community, guarda. Perché WhatsApp diventa pagamento. Io, allora, sinceramente sono un po' contento. Ma tu, perché? Tu perché non sei non fai parte della community? Cioè, non so ancora, cioè, perché ti teniamo. Dire, la domanda è: ma perché vi ci siete messi dentro? Cioè? Perché era gratis. Perché era gratis. È come mandarsi SMS. Io mandavo le mail prima. Cioè, però già un'applicazione che come passo usava il MAC address della scheda di rete del telefono. Cioè. Ah, non bella zozza. Ah, quella che cos'è allora? Aspetta, che appena quella scoperto. Di casa. Appena. No, la rete del vicino. Rete del vicino. Bella zozza. Io voglio chiamare la mia rete rete del vicino, così almeno qualcuno la trova e dice: chissà di chi è questa rete? Del vicino? Ah, quale vicino però? Quanti siete? Io sono veramente circondato da reti wifi, che tra l'altro non prendono un tubo a casa mia, per cui i buri grandissimi. Tu abiti in un bunker? Volevo chiedervi se qualcuno ha come me muri di 65/75 centimetri, se avete delle soluzioni oltre ai powerline, se avete delle soluzioni. Secondo che non mi fregano il cervello, grazie. Fai i buchi nel muro. Cavo. Ma le sto facendo a caso, però. Anch'io ne ho fatto uno. Però non vale. Davide l'ha fatto per davvero. Sì, fra la sala e la camera da letto. Ma non vale. A me non succederebbe. C'era veramente un sacco di muro. Ma pensa che lui l'ha fatto semplicemente appoggiandosi di faccia. Ha fatto il buco. Non è che ha proprio dei muroni. Allora. Bene. Denigratori di muri altrui. Bene, benissimo. Vi comunico che tra poco esce il nuovo 3D Mark per chi è intrippato di schede video e vuole vedere quello che non cosa? Vedrà mai a livello di videogame sul suo computer, perché nessuno ha intenzione di fare dei videogame così complessi che non vedono, che non vendono niente. Se nel frattempo avete una scheda grafica e volete usarla, sta uscendo la versione nuova di Flight Gear. Oh sì? Veramente? Sì. Imparerò a giocarci. Ci saranno delle cose molto, molto interessanti, soprattutto i filtri grafici. Faranno tipo l'effetto visione notturna. Cioè, visione metti, notturna. Abbassi la luminosità? No, quella tipo occhialini per la visione notturna. Ah, proprio da tamarro. Esatto. Sì. E anche un effetto cinema con la svignettatura degli angoli e una leggera tendenza al seppia dei colori. Per quando piloti i modelli vecchi. Sì, sì, no, no, ma ti dà proprio l'effetto del cinema, cioè la colore, cioè la aberrazione cromatica sugli angoli. Il primo aereo, non c'era mica il modello. Belle cose. Bellissime. Davvero. No, parliamo di cose serie, dai. Android che vuole... dobbiamo parlare di cose serie perché, a parte WhatsApp che forse diventerà pagamento... Barbone, 79 centesimi comprato. Ma dai, voglio dire, ma un'applicazione peggio di quella... Dai, ogni tre giorni escono aggiornamenti, sarà un buco unico quella roba lì. L'hanno fatta su col con l'attack. È una cosa indegna. Parliamo di Android, dai. Parliamo di Android. E il tasto share. Share. Cos'è questo tasto? Quello share? Con cui mi mandi tutte le foto stupide che fai e tutti i link porno che mi mandi. Perché Android 4 non c'ha più cose scritte, sono solo tasti. Io sono simboli. Appunto, cioè, non capisci le cose. Io... No, ma tra l'altro vogliamo parlare della sveglia di Android 4. Io non capisco più un cavolo se la sto zittendo o se... Cioè, cosa vuol dire? È diventata, prima era ha un tasto, prima era stop, due, e postponi, stop e postponi, adesso prima adesso c'è solo spegni su 4.2, ragazzi. Su 4.2 è diventato un occhio e una ZZ secondo proprio neanche occhio. Cioè tu trascini a destra c'è l'occhio, a sinistra c'è la ZZ o viceversa. Io non mi ricordo mai se ZZ, forse è ZZ per zittirla. E occhio perché l'ho vista. Esatto, la zittisci e lei ritorna a suonare dopo un tot. Ah, ecco cos'è questo rumore, la sveglia di stamattina. Esatto, io comunque ragazzi vi assicuro che la mattina quando sei in coma farmaceutico non ti rendi conto di cosa fai. E se la zittisci per sempre? Ma anche la sera quando esci non ti ricordi. Quindi se volete una scusa per dire a voi stessi per non andare al lavoro, va benissimo usare la sveglia di Android nuova. Nuova. Vabbè, comunque il tasto share ci sono voci che vorrebbero tirarlo via dalle prossime versioni di Android. Cos'è? Vogliono togliere il tasto share? Ma sì. Cioè, stiamo per perdere il tasto share? Sì. E allora partiamo tutti in un pianto triste. Triste. Siete veramente Jesus, I don't wanna lose you. Keep me always on your ways. Yeah, I wonder where I lost sight. It seems that there were better days. Anyway, I want to follow. Direi basta così. Ma così triste? Penso che abbia fatto una canzone abbastanza triste. Cacchio, se era triste. Non ce la faccio. Vabbè, comunque sono già nate un casino di applicazioni che ti permettono di rimettere sul tasto share e soprattutto di modificarlo, di configurarlo come vuoi te. C'è una cosa carina, per esempio, su alcune applicazioni che abbiamo provato, la possibilità di fare un multi share, quindi tu ne selezioni 4-5, gli dai l'ok e in automatico lui ti fa andare sulla prima. La scrivi quel cacchio che vuoi, non lo so, Fabrics in mutande, ha ha ha ha, per dire. Sì, c'è cioè un esempio. Per esempio, capisco. Dai il tasto condividimelo, torni indietro col back, ti manda sull'altra applicazione, non lo so, Twitter, Fabrics in mutande, ha ha ha ha ha. Casomai fai anche copia e incolla, già che sei, almeno siamo a posto. Però è carino perché ti gestisce molte più applicazioni e ci sono anche delle versioni a pagamento che ti permettono di fare anche dei gruppi di applicazioni. Quindi il mondo, per esempio, che te lo condivide con tutti. Il mondo. È molto interessante tutto ciò. Non trovo. Allora. Io continuo a non trovare dei tasti qui. Te l'ho detto, stai usando Android? Oh, ho trovato un computer paura dalla Germania. Guarda, ma come stai lo sai che stai facendo la radio? No, no, no, non è puoi... uscito da solo. Perché mi sono iscritto alla mailing list. Certo. Cerco computer per te. Computer per terra. Tower, che sta per terra. Direi che abbiamo raggiunto il fondo del barile. Sì, davvero, proprio. Io ho anche il fondo del bicchiere. Oh, sono svegliata la cicciona. Mi hanno dato due birre rosse questa sera. Sì, vabbè, ma non si nota la differenza, vai tranquillo. Ok, grazie. Glu, glu, glu. A questo punto vorrei ringraziare tutti voi che ci avete pazientemente ascoltato anche questa puntata. Prego, puoi dire la tua cazzata. Io volevo dire la mia cazzata. Ricordatevi di passare il nuovo anno con nuovi progetti open source. E se non li trovate, andate a cercare su GeForce, che lì di solito qualcosa c'è. Aiutate, contribuite, anche solo poco, ma date una mano. Contribuite anche a Opencast, scriveteci delle lettere se volete. Caro Opencast, se volete che siano trattati determinati argomenti, mettete insieme delle lettere. Lo so, la C. E fate delle frasi di senso compiuto. No, non va bene così, perché l'ultima volta che abbiamo detto questa cosa sono arrivate delle lettere minatorie scritte con le lettere dei giornali. Non va bene questa cosa. Va bene. Comunque fatevi sentire su www.gl-com.it. Questo che funziona sempre. Questo era Opencast, la puntata è tra la 34 e la 36 più o meno, 12, ma lo scoprirete 92. Solo vivendo. No, voi lo sapete già quando scaricate questa puntata, noi siamo ancora così nel limbo. E lui non ha bevuto, così. Pensa. Vabbè. E niente, volevo salutare tutti i pianisti. Non è facile. Esatto. Non è facile. Perché? Complimenti confermare. A tutti i pianisti, perché non è facile. Confermiamo anche noi. Se dovessimo trovare un tasto, lo troveremo. Un tasto? Se non un lo tasto. Dovessimo trovare, non lo troveremo. Allora ve la siete cercata, Cioè, se cerca. Per dire. E a questo punto salutiamo gli amici di Linux Bird che ci seguono. Salutamelo. E soprattutto ciao, cello Linux. Ci rendono edotti di notizie che poi noi vi riraccontiamo, per cui è un po' un circolo vizioso. Sono loro che ci minacciano. Non lo so, vuoi dire? Può essere. E vi lascerei con un anch'io brano. Vi lascerei, ho deciso. Un ultimo brano che, attenzione, un brano che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. Davvero, davvero sempre attuale. Tanta roba. Yes, girl, what did you do to me? You broke my heart, you set me free. Princess girl, can you be princess girl, would you set me free? So princess girl, you know how I mean. Princess girl, you're the best I've seen. Baby, know that I can be free. Listen to the girl, I wanna be with you and me. Oh, princess girl, what do you see? Princess girl, set me free. Princess girl, what do you see? Princess girl, set me free. Break my heart, say it's okay. Twist it around, back again. Tell it now, like I did before. I could say that I could come back for more. Princess girl, you're the best that I've seen. Princess girl, you're the woman of my dreams. Princess girl, won't you stay with me? I would love you and never be free. Look me in the eye and I would say I love you, baby. Hey, I could be broken too. I would be so happy to be broken back with you. Princess girl, set me free. Break my heart and marry me. Princess girl, set me free. Break my heart, marry me. Princess girl, you know the things that you do. They drive me wild, I'm always thinking of you. Princess girl, set me free. I love you, baby, wanna be you and me. Francisco set me free. Break my heart, back with me. Francisco set me free. Break my heart, back with me. Francisco set me free. Break my heart. Set me free.